E poi l'altra cosa, l'altro canale che uso spessissimo sono i podcast, quindi sui podcast anche qua dipende uno cosa, su cosa vuole formarsi. Per esempio io all'inizio sono partito con Amazon e mi guardavo The Amazing Seller, si chiama il podcast, e quindi questo è relativo ad Amazon, per tutti gli argomenti ce n'è uno insomma, e quindi questo è un ottimo canale per fare formazione nei tempi morti, mentre si guida, mentre si sta nell'autobus, in metro, eccetera eccetera. Fai anche una funzione, diciamo, pubblica, perché in questo periodo molti utilizzano l'e-commerce proprio per impossibilità di recarsi nei posti, ed è per questo che l'e-commerce deve essere sicuro, e anche per le mamme. È molto importante anche avere qualche tuo consiglio, proprio perché la tua professionalità porta anche un'etica. Quello che posso consigliare, soprattutto per prodotti che diciamo sono un po' delicati, come quelli di prima infanzia, è non fidarsi degli sconti. Intendo dire, non fidarsi di quelle piattaforme che ti propongono il prodotto a prezzo bassissimo, senza nessuna garanzia, certificazione, eccetera. Quindi non basarsi solo sul prezzo, ma cercare, diciamo, un venditore che abbia anche un volto dietro, ecco. Questo è quello che mi sento di consigliare. Ora! È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su Aruba.it.